Nerdcast episodio 8. E finalmente Nerdcast ritorna, episodio numero 8, dopo due mesi di assenza a fare non mi ricordo neanche che cosa, ma l'importante è che Nerdcast non è finito, ancora continua. E episodio numero 8, se non ricordo male. E prima di iniziare vorrei appunto ringraziare tutti quelli che in questi due mesi e qualcosa di più mi hanno praticamente spronato, mi hanno mandato email o insomma hanno commentato sul blog. Chi mi ha esortato a fare più puntate più spesso, lo capisco, ma insomma questi alieni che vengono a rapire, questo studio che insomma mi prende tutto questo tempo, capita bene che è un po' difficile per me, ma in ogni caso si ritorna di tanto in tanto, ovviamente non ogni due settimane come mi ero prefissato qualche tempo fa, ma l'importante è che Nerdcast ci sia e ci siamo. Ironia della sorte, non ho neanche fin troppo tempo per registrare, quindi cercherò di fare abbastanza sbrigativamente questa puntata. Ma si sa che quando dico che le puntate le voglio fare sbrigative, vengono fuori di quasi un'ora e mezza, forse due ore. Quindi aspettatevi una puntata di tre ore. E questo appunto. Che fare? Diciamo che ho deciso di registrare questa puntata così. Oggi, praticamente qualche oretta fa, e quindi non ho preparato proprio tantissima roba. Però mancavo da troppo tempo, quindi volevo registrare qualcosa e vediamo che cosa ne esce fuori. Quindi, di musica in ogni caso ne ho in abbondanza, in questi due mesi che comunque Giamendo non ha chiuso. Ne ho trovata un bel po'. Partiamo dunque subito con la prima canzone, perché sennò qua perdiamo mezz'ora soltanto per l'introduzione. Questi sono italiani, sono gli FB con Coming Becoming. Yes. Becoming degli FB su jamendo.com. Bene, di cosa parlare in un podcast senza scaletta? Non lo so, in ogni caso nel corso della canzone in realtà ho stilato qualche punto di cui vorrei parlare e cercherò di non dilungarmi almeno questa volta. Dunque, diciamo questo, un evento abbastanza importante, tra virgolette, per, almeno per me, per i geek in generale, è stata l'uscita, dopo mi pare, non vorrei dire una cavolata, mi pare 4 anni e mezzo, dall'ultimo capitolo di Final Fantasy 13 per PS3 e Xbox 360. Io ovviamente l'ho comprato al day one, subito, proprio prenotato da tipo 2 settimane prima, limited edition e tutto quanto. E ovviamente ho iniziato a giocarlo e insomma, una delle caratteristiche principali di Final Fantasy in generale è sempre stata la longevità. Infatti a un mese più o meno dall'uscita, sì, più o meno un mese dall'uscita in Italia, sto ancora giocando. Sono, mi pare, a circa 40 ore di gioco. Sono comunque alla fine. E il gioco è diviso in 13 capitoli, appunto Final Fantasy 13. E appunto, diciamo, dopo circa una quarantina, 45 ore di gioco bisognerebbe finirlo più o meno. E appunto, diciamo che per gli standard dei giochi attuali, Final Fantasy praticamente è longevo fino alla morte, praticamente, perché di solito un gioco si può finire in 8, 9, massimo 10 ore. Con un RPG giapponese in generale, non soltanto con Final Fantasy, in realtà si arriva pure alle 50-60 ore di gioco per finirlo, che poi per fare tutte le quest secondarie forse si arriva anche a 100 e passa. E dunque volevo appunto parlarvi un attimo di Final Fantasy 13. Perché volevo parlarvi di Final Fantasy 13? Io di solito non faccio recensioni di giochi singoli, però in questo caso sì, per un semplice motivo. Diciamo che più o meno all'inizio di quest'anno, a gennaio, quando sono arrivate le prime recensioni a tutto il mondo di Final Fantasy 13, diciamo ci sono state recensioni discordanti. Chi lo dava per un gioco abbastanza insulso, è, diciamo, una grandissima fregatura. Alcune, mi pare una rivista di Hong Kong ne parlava come la più grande fregatura nel mondo dei videogiochi, nella storia dei videogiochi, una cosa simile. E anche una rivista italiana, che adesso magari non cito per correttezza, una delle più importanti riviste italiane di videogiochi ovviamente, ha valutato Final Fantasy 13 con un 6 su 10, dicendo appunto che non era sicuramente il gioco che tutti si aspettavano, non era il Final Fantasy... un Final Fantasy paragonabile a tutti gli altri 12 precedenti, eccetera. E quindi, insomma, un po' io da fan di Final Fantasy, avendoli finiti tutti quanti, ero un po' preoccupato, insomma, nonostante comunque un po' tutti andassero addosso a questo gioco, io ho preferito prima comprarlo e poi vedere un attimo, cioè giudicare personalmente. E così ho fatto. In realtà Non è che tutti i siti e tutte le riviste ne abbiano parlato male, cioè ci sono stati comunque altri organi di informazione che l'hanno valutato un po' meglio, chi peggio. Ma in linea di massima, diciamo, almeno io dico questo, dopo averlo provato, cioè dopo averlo giocato per circa 42 ore, adesso non ricordo bene, devo dire che non è un gioco aperto a tutti quanti, nel senso che ho visto molte recensioni che parlavano del fatto di come questo gioco fosse difficile per la maggior parte dei casi. Io personalmente non l'ho trovato assolutamente difficile, cioè diciamo che la difficoltà alla fine si attesta nella mediocrità, almeno per le prime 20 ore, quando poi arriva un boss che adesso non sto qua a spoilerare, che almeno a me ha dato parecchie rogne. Però insomma, in generale non è tutta questa grandissima difficoltà. Sicuramente è consigliato a chi già prima ha giocato con almeno un capitolo, almeno ha finito un capitolo di Final Fantasy, della saga di Final Fantasy, perché in effetti chi si avvicina per la prima volta a questa saga e prova il 13 non va oltre il secondo capitolo probabilmente. E quindi insomma un po' queste, sicuramente vado contro queste recensioni talmente disfattiste, no? Che lo davano come una grandissima fregatura e tutto il resto. In realtà, cioè, personalmente io parlo come fan e non come giornalista. Final Fantasy XIII è un gioco spettacolare, cioè secondo me è davvero spettacolare, è sopra la media rispetto agli altri giochi, insomma, di questo periodo, è un po' per tutto quanto. Cioè, partendo insomma dal punto forte che è stato un po' di Final Fantasy, la saga di Final Fantasy, cioè la grafica, cioè, oltre ad Uncharted 2, che forse sinceramente magari lo supera, Final Fantasy XIII ha probabilmente la grafica migliore con Uncharted 2. E le animazioni sono impeccabili. Nonostante comunque la linearità di cui parlo fra poco, comunque tutte diciamo le ambientazioni sono fatte benissimo, eccetera. Insomma, come sempre, come in ogni Final Fantasy. Un altro punto forte, un punto insomma in cui Final Fantasy non verrà mai battuta secondo me, è il sonoro. Il compositore, diciamo, storico del sonoro di Final Fantasy non ha partecipato alla colonna sonora, al soundtrack di questo Final Fantasy, ma in ogni caso è davvero superbo, è bellissimo. Ci sono come sempre dei soundtrack che praticamente ci catturano e non, ci costringono probabilmente a non andare avanti nella storia soltanto per ascoltare quel tipo di ambientazione, quel tipo di musica. Quindi per quanto riguarda insomma la grafica e il sonoro è impeccabile, cioè è 10-10 secondo me. È un po' diverso per quanto riguarda magari il gameplay. Anzi, prima di tutto la longevità. La longevità, come ho detto prima, si attesta più o meno tra le 40, 45, forse 50 ore per diciamo la quest principale, diciamo l'avventura principale, ecco, per finirlo, fino al boss finale, diciamo. E diciamo che poi continua probabilmente verso l'infinito, tende a più infinito, se si vuole fare anche qualche quest secondaria, se si vuole sbloccare tutto quanto, se si vogliono prendere i trofei, eccetera. E appunto, dopo la longevità, abbiamo il gameplay. Il gameplay in effetti ha fatto abbastanza discutere, a me ha lasciato un po' perplesso almeno per le prime 5-6 ore di gioco. Perché, per chi non lo sapesse, insomma, Final Fantasy fino al dodicesimo Final Fantasy, cioè quello prima appunto del tredicesimo, aveva un gameplay, diciamo, per quanto riguarda le battaglie, basato sui turni. Cioè, bisognava dare un comando, per esempio, di attacco ad ogni personaggio del party, e ovviamente si controllavano tutti e quattro i personaggi del party, tutti e tre, dipende insomma dal Final Fantasy, e alla fine insomma il controllo della battaglia era un po' globale per tutto il party. In questo Final Fantasy invece no, il party è composto da tre personaggi e noi comandiamo praticamente soltanto il leader del party, che mi pare che per le prime 35 ore di gioco viene scelto dal computer, ma che poi possiamo scegliere noi. Insomma, il party all'inizio è di default per un bel po' di tempo, per poi, insomma, darci la possibilità di poterlo costruire come vogliamo. E quindi, appunto, controllando soltanto un personaggio, a me sembrava un po' strano che insomma gli altri due personaggi del party venissero controllati dalla CPU. Però devo dire che questo meccanismo funziona come quasi alla perfezione, cioè proprio bene. In un certo senso gli altri due personaggi che non controllo fanno praticamente quello che io vorrei che loro facessero. Quindi è come se il computer calcolasse, diciamo, il gioco calcolasse quali sono le mosse da utilizzare durante una precisa fase dell'azione, del combattimento, e lo fa automaticamente senza che noi diamo degli input, eccetera. E dunque, insomma, in un certo senso è stato un cambiamento radicale, però è uscito fuori qualcosa di buono, di meraviglioso, secondo me. Anche se io continuo a preferire comunque il combattimento a turni, nonostante comunque questo sia un pochino più tattico. Una cosa che però non mi è piaciuto mi è piaciuta di questo gameplay di combattimento è stato il fatto che mi sono accorto che premevo ripetutamente il tasto X, che è il tasto appunto per attaccare, per dare la conferma, e praticamente non facevo altro che premere quel tasto X fino a quando, cioè la maggior parte delle volte ovviamente, fino a quando appunto non dovevo cambiare Optimum, oppure magari scorrere un attimo tra le abilità, ma capita insomma abbastanza di rado, se non appunto negli scontri più difficili. E quindi di solito il meccanismo degli scontri è questo: si incontra un nemico, un mostro, si continua a premere X e si attacca con gli altri due compagni comandati dal gioco, e si continua così fin quando appunto il nemico non muore. Poi ovviamente, come ho detto prima, dipende, però almeno per me nella maggior parte dei casi è stato così. Poi, cosa altro c'è da dire? Ah sì, ecco, la linearità. Questa benedetta linearità del gioco, di cui si è sparlato e riparlato così tante volte, era la cosa che mi preoccupava di più, in effetti, perché insomma, una delle critiche che appoggiavo mosse a Final Fantasy XIII era il fatto che in realtà Final Fantasy, la saga di Final Fantasy in generale, è sempre stata una saga aperta, cioè un RPG, appunto un gioco di ruolo, e per prima cosa un gioco aperto, cioè con una mappa non ben delineata, però bella grande, che si può esplorare completamente. E Final Fantasy XIII appunto era il contrario. Veniva criticato il fatto che fosse sempre lineare, che ci fossero queste mappe che andavano o avanti o indietro, non si poteva ritornare nei posti già visitati, si poteva andare soltanto avanti, almeno fino a una ventina di ore di gioco, quando si arriva su Grand Pulse, dove comunque la terra è esplorabile. Però insomma, in effetti, per le prime 20 ore di gioco, che non sono poche, bisogna andare o avanti o indietro, e non si può ritornare nelle parti già frequentate. E dunque io mi sono avvicinato un po' con sospetto a tutto questo, e devo dire in effetti che per le prime ore di gioco è stato un po' frustrante. Cioè io almeno l'ho sentito molto, il fatto di dover andare sempre avanti e sempre di dover seguire il filone cammino, mostro, battaglia, e poi di nuovo cammino, sempre andando avanti o indietro, eccetera. Però in un certo senso mi ci sono abituato, tra virgolette, perché diciamo che non si sente fin troppo il peso della linearità una volta dopo che si è entrato proprio all'interno del gameplay vero e proprio. Cioè, come ho detto prima, sento più il fatto di dover premere ripetutamente sempre lo stesso bottone nella battaglia che invece di dover andare avanti costantemente nel gioco, perché in effetti, cioè, il fatto di non avere una libertà in effetti un pochino è una cosa che mi dà fastidio. Però più si va avanti e più si vedono, insomma, magari le nuove ambientazioni, nuovi artwork messi apposta dai programmatori per farceli godere, eccetera. Nel senso che quello che voglio dire è che secondo me la linearità è stata fatta apposta dai programmatori per diciamo favorirne un po' di più per quanto riguarda la grafica. Voi direte cosa c'entra la grafica e le ambientazioni un po' con la linearità. C'entra nel fatto che comunque dovendo seguire un percorso prestabilito, che poi sia in avanti, indietro, in obliquo, non interessa, e secondo questo percorso prestabilito si vedono anche, insomma, delle ambientazioni prestabilite. Dunque è come se fossero stati gli stessi programmatori a rendere il gioco un po' lineare, tra virgolette, perché poi fin troppo lineare non è. E per in effetti farci assaporare un po' di più l'ambientazione, almeno questo io credo e questo io ho fatto. E per quanto riguarda le ambientazioni, come ho detto prima, sono pazzesche, sono davvero stratosferiche. Alcune sembrano quasi reali, almeno come alcuni dettagli, come per esempio il cielo o le nuvole o l'acqua o l'erba, tutte queste cose sembrano davvero reali, è una cosa pazzesca. C'è altro da dire? Non lo so. Diciamo che in generale, per dare una valutazione finale, a me sta piacendo parecchio. Non è un gioco da 10 e lode, perché ci sono in effetti delle lacune, cioè nel senso che comunque si poteva fare di meglio. Cioè, ho questa costante impressione che siano state fatte tantissime cose per Final Fantasy XIII, ma che non siano state utilizzate nel gioco vero e proprio. Io ho questa sensazione e un po' mi dispiace perché in effetti si poteva fare di più, avendo fatto un po' di più, ma soprattutto per quanto riguarda la varietà di gioco in realtà. Si sarebbe potuto anche attestare verso il 10, però è un gioco secondo me da 8,5, 9, perché perfettissimo non è. Però insomma, io ancora il gioco non l'ho finito, sono vicino, credo, all'ultimo capitolo, il 13esimo, e quindi magari può darsi pure che cambierò idea e magari lo reputerò un gioco da 10 alla fine. Oppure un gioco da 6, ma non credo proprio, dopo 40 ore, non credo assolutamente. Vabbè, dopo questo gran parlare, finalmente passiamo ad un'altra canzone. Passiamo ad un'altra canzone. Questi sono i Perfect Smile con El Acto Final, sempre da gemendo.com. Respira. detto final, sempre da Giamendo. Dunque, io mi sto già spingendo oltre il limite massimo ed avrei pure delle cose che vorrei discutere con calma. Quindi, mentre giro un po' riguardo a quello che devo fare, faccio partire un'altra parodia, la parodia di questo episodio. Dunque, mi pare parodia numero 5, non vorrei dire una cavolata, è riguardo Tetris. In realtà l'ho fatta un bel po' di tempo fa, quando speravo di poter fare l'episodio. Poi ovviamente sono sopraggiunti di nuovo gli alieni e non ho potuto farlo, ma adesso finalmente posso proporla. Appunto, la nostra bellissima quanto fastidiosa voce metallica ci parla un po' di Tetris con il sottofondo di Tetris. Tetris. Tetris è un gioco che all'apparenza può sembrare avvincente, ma il cui unico scopo è quello di far perdere il giocatore. Infatti è forse l'unico gioco al mondo che non ha mai avuto una fine o un filmato finale, tanto che al giorno d'oggi molti giocatori affermano che addirittura non esista una fine. Tetris è stato definito come un gioco di logica matematica allucinogeno cattivo, perché dopo alcune ore di gioco si perde la cognizione della realtà e si crede di vivere su un pianeta abitato da blocchi di vario colore che scendono continuamente da non si sa dove. Questi blocchi di vario colore, tecnicamente definiti tetramini o blocchi colorati allucinogeni cattivi, sono i veri protagonisti del gioco nonostante non abbiano un nome ben definito. In tutto sono 7, anche se nella primissima versione del gioco c'era un altro blocchetto colorato di nero a forma di W, che venne immediatamente eliminato per la scomodità che comportava all'interno del gioco. Molti altri invece pensano che sia stato eliminato a causa della sua carnagione scura, e quindi per razzismo. I 7 blocchi colorati allucinogeni cattivi presenti nel gioco rimarcano delle lettere dell'alfabeto, ma possono essere smistati meglio come di seguente. Blocco verde a forma di collo rotto, blocco azzurro a forma di uomo morto, blocco rosso a forma di mal di pancia, blocco giallo a forma di obeso, blocco viola a forma di uomo con gravi dolori intestinali, e infine blocchi blu e arancione a forma di organo genitale maschile. Come si può vedere sono in effetti tutti allucinogeni e cattivi. La prima versione di Tetris risale al 1984, quando uno scienziato russo molto cattivo decise di voler spezzettare gli esseri umani per proprio diletto. Così decise di programmare un gioco che potesse farlo al posto suo e possibilmente con un sottofondo musicale incessante e comunista. Quando però i sovietici cattivi e comunisti vennero sconfitti, il gioco venne esportato in tutto il mondo e fece un gran successo. Tra le innumerevoli versioni di Tetris, si ricorda una delle più fortunate e recenti per il Nintendo DS, che vedeva come presenza inutile lo stesso Super Mario, il quale si mette a ballare sullo schermo come un idiota. L'etimologia del nome Tetris è stata scoperta di recente, e sembra sia una bestemmia molto blasfema in russo antico. Anche se molti sono convinti del fatto che fosse una parola ipnotica ideata dai cattivi comunisti che creava negli umani lo stimolo di andare a votare Bersani. Sembra poi che più si va avanti nel gioco, e più i blocchi colorati allucinogeni cattivi si incazzino. Infatti cadono sempre più velocemente finché il giocatore non perde sistematicamente e di conseguenza impreca. Proprio a causa della produzione infinita di blocchi colorati allucinogeni cattivi, si pensa che l'unica entità in grado di poter finire Tetris e non perdere sarebbe Dio. Altri invece credono che Tetris stesso sia Dio. Bene, credo di aver fatto un pasticcione, ma proprio grandissimo, con il mixaggio della musica di Tetris, però vabbè, capita. Questo è quando appunto decido di fare i podcast senza saperlo prima, insomma. Dunque, ho pensato un po' a cosa potrei dire adesso. Ci sono un bel po' di cose perché, insomma, durante tutto questi 2 mesi ho pensato bene a che cosa potessi dire, mi sono documentato e tutto il resto. Vorrei parlarvi. Sì, vorrei parlarvi dei mangaka. Che cosa sono i mangaka? Insomma, un po' come si può capire dal nome, i mangaka sono coloro che in un certo senso proprio producono i manga, cioè i disegnatori dei manga. E appunto, per esempio, che ne so, Akira Toriyama è il mangaka di Dragon Ball, Kishimoto è il mangaka di Naruto, eccetera, andando avanti fino all'infinito. Appunto, il mangaka, volevo parlarvi del fatto che è una forse la professione meno esercitata al mondo, cioè più difficile da esercitare in realtà. Perché essendo io un ex aspirante mangaka, so benissimo come sia difficile diventare un mangaka, un vero produttore di manga che lavora dalla mattina alla sera e non si stanca mai. E diciamo che ho avuto modo di parlare con altri miei amici, ex colleghi, diciamo, che ancora tutt'oggi studiano per diventare dei mangaka, e mi hanno parlato di come sia un po' delle varie fasi che bisogna seguire per avere almeno un minimo di possibilità per diventare dei mangaka in Giappone, ovviamente, perché mangaka occidentali non esistono. Dunque, partiamo dunque dal punto 1. Io ho fatto più o meno 4 punti da seguire. Il punto 1 è appunto saper disegnare. E questo è necessario, insomma, se vogliamo diventare mangaka, la prima cosa importante è disegnare. Dunque, se magari, che ne so, all'ascolto c'è qualcuno che fa il liceo o qualcuno che sa già disegnare, e impegnatevi, perché insomma la concorrenza si basa soprattutto sullo stile di disegno. Quindi dovete avere uno stile di disegno competitivo, accattivante, originale e tutto il resto. Poi come si impara a disegnare, quello è un altro discorso. Il secondo punto, un pochino più difficile del semplice disegnare, è imparare il giapponese. È ovvio, insomma, se dovete essere dei mangaka veri e propri, dovete imparare il giapponese per poi andare in Giappone e disegnare i vostri manga in giapponese. Nel senso che, almeno per adesso, è ovvio e fondamentale che dopo aver imparato a disegnare bene con uno stile originale, si possono fare i manga dialogati in italiano. Però, insomma, è ovvio che per arrivare ad un livello successivo e superiore bisogna per forza imparare il giapponese. E quanto ci vuole per imparare il giapponese? Ci vuole, insomma, non è una lingua facilissima. Poi ognuno ha i suoi tempi, ovviamente. Però diciamo che con un impegno costante e uno studio fatto molto bene, magari un 3-4 anni. Sinceramente è uno studio giapponese, quindi ancora no. Però quindi non posso saperlo con precisione. Però, insomma, i tempi sono un po' quelli. E dunque, cosa bisognerebbe fare un aspirante mangaka, per esempio, in Italia? Magari dovrebbe, ovviamente, disegnare il più possibile e, nello stesso tempo, se non ha impegni particolari, imparare anche il giapponese, insomma, che comunque è abbastanza oneroso, non è proprio a gratis, ecco. Dopo che sappiamo disegnare, dopo che sappiamo parlare il giapponese, ancora non abbiamo fatto il più. Perché che cosa bisogna fare? Ovviamente bisogna andare in Giappone. Andando in Giappone, parlando il giapponese abbastanza bene, non benino, ma abbastanza bene, anzi molto bene, perché insomma i redattori sono abbastanza seccanti. Dunque, dopo aver imparato il giapponese e essere arrivati in Giappone, cosa deve fare un aspirante mangaka? Perché questo siete arrivati al terzo punto. Diciamo che i mangaka, diciamo occidentali, che ormai sanno disegnare e sanno parlare giapponese, sono in Giappone, sono più o meno allo stesso punto da cui partono i mangaka giapponesi. Alla fine non vi manca niente rispetto a loro. Però c'è una grandissima competizione. Di solito la maggior parte dei mangaka viene selezionata dalle riviste, soprattutto dalla rivista di Shonen Jump, che è la rivista principale di manga in Giappone. Che cosa fa Shonen Jump? Diciamo che settimanalmente, se non sbaglio, mensilmente, bandisce dei concorsi appunto per aspiranti mangaka. Che oltre a dare un premio di vario genere, può dare anche in effetti abbastanza visibilità, perché di solito queste storie che vincono in questi concorsi finiscono proprio su Jump, che è appunto una rivista che include Naruto, Bleach, One Piece, tutti i manga più famosi. E questo serve soprattutto per il fatto che se l'indice, insomma, di gradimento in generale di quella storia che ha vinto il corso settimanale è alto, può darsi che in effetti un redattore di una casa editrice possa contattarvi. Dunque, in un certo senso, che cosa bisogna fare arrivati una volta in Giappone? Bisogna disegnare, bisogna comprarsi soprattutto, per prima cosa, un numero di Jump, il più recente ovviamente, e vedere se ci sono dei concorsi, partecipare ad uno di questi concorsi, che di solito, insomma, vogliono che si scriva una, si disegni anzi una storia di 30-35 pagine, ovviamente un manga, e venga spedito. Per i vincitori c'è una buona possibilità, non sicura, di venire contattati appunto anche da un redattore di Jump stesso o di un'altra casa editrice. Ovviamente magari questo è il punto più difficile, cioè farsi notare, perché per prima cosa voi siete occidentali, cioè, quindi in un certo senso io non sto qua a dire ovviamente che i giapponesi hanno pregiudizio, però magari un editore, un redattore giapponese preferisce lavorare più con un giapponese che con un occidentale. Però ovviamente dipende dai casi, io non lo so, quindi non prendetemi neanche troppo sul serio. In ogni caso, se riuscite a superare anche questo terzo difficilissimo punto, cioè farvi notare, farvi contattare da un editore giapponese, si arriva praticamente al quarto punto. In che cosa consiste? Cioè, dopo che il redattore vi contatta, ovviamente vorrà vedere altri lavori fatti da voi. Magari di solito quello che si fa in questa fase è preparare il primo capitolo del manga che si ha in mente di fare. Dunque si prepara il primo capitolo e viene dato al redattore, all'editore interessato che vi ha contattato. Se questo editore, insomma, dovesse ritenere che il manga sia, cioè il primo capitolo del manga sia comunque interessante, allora ci sono buone possibilità che proprio dalla settimana dopo il vostro manga venga pubblicato su Jump, soprattutto su Jump. Che cosa succede dopo che diciamo si è arrivati a farsi pubblicare il primo capitolo, il secondo, il terzo capitolo del proprio manga su Jump? Succede che appunto Shonen Jump, la rivista, ogni settimana stila una classifica che è un sondaggio più che una classifica, che appunto mostra i manga preferiti dai lettori in ordine. Se il vostro nuovo manga nel corso delle settimane in effetti risulta tra i preferiti, insomma non è sicuramente all'ultimo posto, pian piano si arriva anche all'edizione di manga tascabile, quindi insomma il manga che troviamo in edicola, e soprattutto, più importante, si continua a essere affermati sulla rivista di Jump. Diciamo che un po' la parte più difficile è appunto il riaffermarsi nel corso delle settimane, perché in effetti la vita del mangaka è una vita davvero di M, per non, insomma, non dirle. E per quale motivo? Perché siccome appunto Jump è un settimanale, bisogna settimanalmente stilare un capitolo. Diciamo che i manga che noi vediamo in edicola sono raccolte di capitoli che vengono stilati soprattutto settimanalmente. Dunque ogni, mi pare, 10, 11, 12 settimane, quindi ogni 11, 12, 10 capitoli, esce anche in Giappone il volumetto. Se, in ogni caso, ogni settimana su Jump esce il capitolo. Il problema per i mangaka è che diciamo, disegnare un capitolo ogni settimana sembra davvero un'impresa titanica, almeno da quello che si capisce. Cioè, tutte le testimonianze dei mangaka che ho letto sono simili, cioè difficile arrivare alla fine della settimana concludendo e rispettando le consegne, è difficile rimanere nella classifica di gradimento con tutta questa vita difficile da fare, eccetera. Perché in effetti il mangaka dorme 2, massimo 3, 4 ore al giorno e per il resto continua a disegnare. Lavoro che non riuscirebbe a fare da solo, perché appunto ci sono i benedettissimi assistenti dei mangaka, che sono 3, 4, 5, dipende, e proprio grazie agli assistenti che si occupano di sfondi, retini, eccetera, diciamo che alla fine i mangaka riescono a rispettare le consegne, però è sempre un lavoro molto difficile, sia perché la vita sociale si riduce praticamente a zero, visto che bisogna dedicarsi solo e semplicemente al proprio lavoro, e sia perché le uniche persone che, con cui si può parlare a volte, quando si ha tempo, sono gli assistenti. Dunque si crea una sorta di nucleo familiare all'interno dello studio del mangaka, che per alcuni versi è sopportabile, perché comunque alla fine il mangaka è riuscito a fare quello che voleva fare, appunto diventare un mangaka, però per altri versi è completamente insopportabile, perché ci sono testimonianze di mangaka che dicono di non uscire da mesi soltanto perché stanno disegnando il nuovo capitolo, devono aspettare le devono rispettare le consegne, devono stare attenti a preparare uno storyboard interessante, eccetera. Dunque diciamo questo per concludere molto velocemente, che mi sto dilungando pure abbastanza. Diciamo che se volete diventare dei mangaka, ovviamente per prima cosa dovete disegnare, seconda cosa dovete imparare il giapponese, terza cosa dovete andare in Giappone e partecipare a un concorso, quarto dovete diciamo rispettare, dopo che verrete presi da un editore, la consegna settimanale, e basta. Se riuscirete a fare questo e se sopportate la vita del mangaka che ho appena descritto, beh, complimenti, siete diventati dei mangaka. Se ne volete sapere di più, approfittatene in questo periodo, perché è uscito il numero 1 di Bakuman. Bakuman, molto velocemente, è un manga che tratta appunto dei mangaka, fatto da gli stessi produttori, diciamo, sì, gli stessi produttori, disegnatori di Death Note, Takeshi Obata e Tsugumi Oba, che appunto questa volta invece trattano di un argomento vero, insomma, non di un argomento di fantasia, che è appunto il fatto di voler diventare mangaka, di volersi affermare in questo. Dunque, se siete interessati, vi raccomando al 100% Bakuman, scritto B-A-K-U-M-B-A-U-K. Vabbè, lasciamo perdere. Andate, chiedete di Bakuman e lo troverete, il numero 1. Dunque, per evitare di impapinarmi ulteriormente, andiamo avanti con la terza canzone. Questi sono i vediamo chi sono i Cyber Snake con War. Continuous process. Questi erano i Cyber Snake con War, sempre da jamendo.com. In realtà non volevo mandare questa canzone perché credevo fosse un'altra, però in effetti riascoltandola proprio adesso mi piace parecchio. E allora, siccome sto sprecando il tempo a mia disposizione, cioè nel senso non sprecando, nel senso che sta finendo e devo finire di registrare molto velocemente, salto alcune curiosità che volevo enunciarvi in questa terza parte o quarta, non lo so, parte del podcast, e cerco di andare subito al dunque verso la fine. Dunque, cosa volevo parlarvi? Volevo parlarvi di un sito, o meglio di una rivista. Se andate sul sito www.neonmagazine.com troverete appunto questa nuova rivista sul Giappone, la quale non può essere proprio considerata una vera e propria rivista cartacea, perché appunto cartacea non è mai stata, ma è scaricabile. Ne parlo perché appunto tramite mi pare un tweet ne sono venuto a conoscenza e mi ha intrigato moltissimo. Di che cosa tratta Neon Magazine e che cos'è neonmagazine.com? Neon Magazine è in pratica un PDF, diciamo una rivista virtuale, appunto come ho detto prima, non cartacea, che riguarda tutto ciò, tutte le curiosità del Giappone. Insomma, parla a 360 gradi di tutto il Giappone e le sue caratteristiche, e ha delle rubriche molto interessanti. Cioè, diviso, secondo me, egregiamente in tantissime rubriche. E soprattutto, siccome viene scritto da appassionati, per me è un lavoro davvero eccelso. Si parla di arti e tradizioni, viaggi, società, cultura, tecnologia, moda, vita, rubrica, cucina, costume. E ogni volta c'è sempre una recensione per quanto riguarda appunto un po' tutto il Giappone. E quindi io lo dico proprio qua in questa sede, credo che per le prossime puntate di Nerdcast io utilizzerò anche Neon Magazine per prendere degli spunti di discussione, ovviamente citando le fonti, ovviamente. E appunto a me ha lasciato molto entusiasta tutto questo, perché per prima cosa non ho mai visto una rivista dedicata al Giappone, neanche in inglese. E soprattutto perché è fatta molto bene. Cioè è fatta, diciamo, stilata nei minimi particolari. Molte persone ci lavorano, per quanto insomma sia una cosa tra virgolette amatoriale. È comunque un progetto che, da quel che mi pare di capire, è molto, diciamo, molto ben studiato, ecco. Io consiglierei, nonostante comunque non siate degli appassionati, se non siete degli appassionati di Giappone, almeno di dare un'occhiata, fate una visita a www.neonmagazine.com, comunque metto nelle note dell'episodio, e magari, non so, sfogliate un po' la rivista, guardate un po' qualche articolo, leggete anche 5 minuti uno dei vari articoli, e secondo me vi catturerà, perché è fatto davvero davvero molto bene. Ma come ho detto appunto prima, è una cosa tra virgolette amatoriale, quindi per adesso è uscito soltanto un numero. Sempre se non sono un idiota io, non ho visto gli altri, ma credo sia soltanto il primo numero. E che comunque è un numero bello, bello lungo. È come una vera e propria rivista, diciamo. Non so quante pagine siano in realtà, però è una vera e propria rivista dedicata al Giappone, che fan del Giappone come me aspettavano, e che quindi sicuramente un fan del Giappone non deve assolutamente perdere. Mi correggo, perché adesso vedo il numero non è il numero 1 ma il numero 0, cioè un numero pilota per vedere un po' l'andamento. Da quel pochissimo che so, da quel pochissimo che ho letto, comunque non sta andando malissimo. Anzi, sta andando più che bene il download della rivista, e mi fa piacere aver contribuito anch'io con questo podcast, insomma, che comunque non è un mezzo di comunicazione di massa, però è il mio modo per apprezzare un po' il lavoro di chi è come me, insomma, di chi si dedica anche più di me a parlare del Giappone, di tutte le stranezze, eccetera. Dunque, fateci una visita. Lasciate commenti, non lo so, contattate gli autori, perché sono tutti molto bravi. Insomma, bisogna portare avanti e dare il nostro supporto anche a queste riviste, perché insomma per adesso è soltanto scaricabile in PDF e visibile sul sito. Però magari un giorno, chi lo sa, un editore passa di qui, magari tu, editore che stai ascoltando in questo momento, potresti in effetti rendere cartacea il lavoro di questi ragazzi. E dunque, siccome, come ho detto appunto prima, non ho tempo di dirvi altre curiosità che mi ero preparato ben bene durante tutti questi mesi, ironia della sorte, e dunque passiamo all'ultima canzone e poi contatti e saluti finali. E vediamo, ecco, questa è la canzone che volevo passare prima. Sono gli Alchimie, o gli Alchimì, non so come si legga. E con Femme Sans Visage. Ovviamente si sente che il mio francese fa abbastanza schifo, però vabbè, gli Alchimie con Femme Sans Visage, sempre da jamendo.com. J'ai rêvé qu'un jour des femmes sans contour, au visage oublié, se firent voler l'envie. Grâce à qui sont-ils sur terre? Sûrement pas grâce à leur père. Le ventre de ses mères les destine à l'enfer. La femme serait bannie, d'un monde où l'on oublie que la vie n'a pas de prix. Les gravats couleur poussière baignant le sang de la guerre, les enfants au bras de leur mère meurent sous la pluie des misères. We'll be right back. Femme sans visage, jamendo.com. Dunque, finalmente siamo alla fine, ma nonostante questo sono sempre oltre l'ora di registrazione, ovviamente. E, prima di lasciarvi, appunto, ricordiamo un attimo i contatti. Il contatto primario, mandatemi un'email. Se volete mandarmi un'email, ma voi volete mandarmi un'email, lo so, mandatela a nerdocast@gmail.com per tutto quanto, tipo, che ne so, critiche, oppure anche critiche, insomma, anche un po' di critiche sono accettate. E, ma, insomma, se non avete critiche, magari volete fare, non lo so, farmi domande, oppure farmi sapere del fatto che voi odiate questo podcast che è così tanto da volermi denunciare per danni orali, allora va bene pure, basta che voi mandate un'email, nerdcast con la O tra nerd e cast, @gmail.com. Poi su Twitter volete aggiungermi, sono nerdfats, dunque www.twitter.com/nerdfats. Il blog. Il blog www.nerdpodcast.blogspot.com, dove metterò appunto questa bellissima puntata adesso che finisco di registrare. E poi su iTunes potete abbonarvi ovviamente gratuitamente, ci mancherebbe altro. E basta scrivere Nerd Podcast. E mi pare sia l'unico risultato il mio Nerdcast, diciamo. E quindi abbonatevi. C'è qualche altro contatto probabilmente, ma io, siccome ci tengo, non mi ricordo. E non so. Grazie a tutti quanti, grazie a voi che state ascoltando, grazie a chi andrà a commentare sul blog, grazie a chi scriverà delle email, grazie a chi mi aggiungerà su Twitter, grazie in ogni caso al mondo, ecco, mi sento buono al mondo, a tutti quanti. Dunque noi ci risentiamo a data da destinarsi, perché davvero non lo so, mi aspettano dei mesi di studio fino alla morte, poi con i soliti alieni qui si registra ogni due mesi, appunto. Quindi, che ne so, magari fra una settimana, fra due settimane, fra un mese, fra due mesi, fra cinque mesi, sei mesi, non lo so. Sono sicuro però di una cosa, che insomma Nerdcast non finirà così, siamo ancora all'ottava puntata, insomma bisogna andare abbastanza avanti. E dunque, detto questo, io vi lascio e buonanotte, anche se state ascoltando Nerdcast di mattina. Ciao ciao!